avanti. Chi è? Marco, tu sei? Mia nataloide, mi. Beh, mamma mia. Oggi sono entrato in via eccezionale. Che ore sono? Le 6 meno un minuto, mi. Natalie, sono uscito un attimo. Mi sono mangiato prima una cosa alle 4:15. C'avevo un po' di appetito, proprio una mezza porzione di roba. Poi sono andato alle 5:15 al bar, mi sono pigliato un bel tè caldo al limone che mi ha rinfrancato. E ho provato a affacciarmi qua a vedere se c'era qualche sopravvissuto. Non sto entrando anche negli altri giorni, Natali, non ho voglia nemmeno più di parlare. Ma ne sto un po' scendendo il baracchino, perché tanto siamo sempre soliti due disperati. Veramente ieri cosa è sul disperato? Gesù che non si entra. Sì, non ho nemmeno acceso, né ieri e né l'altro ieri, non ho neanche acceso. Nemmeno il ricevitore, tutto spento. Perché ieri gente c'era. Eia, poi stamattina ho fatto una bella chiacchierata con Pomponio, su. Eia, basta. Quando mai non sta lavorando questo risotto. O battendo, segando. Mamma mia. Detto lui che riesce a farlo. Eia, sì, basta spaziare, Natalì. Quando c'è gente in PML vai lì, quando c'è gente qua, vai venire qua, quando c'è gente al 23 vai al 23. Giusto, no? E vai. Ho sentito qualcuno sotto, chi è? Fino che fa vedere e poi non parla. E vai. Ma chi è Stefano? Vai. Puttanaro. Troioso. Oi. A Stefano mi. Vabbè, io non. Sono abbastanza giù, Natali, sono abbastanza demotivato, non. Sono in fase negativa, quindi manco il baracchino mi viene voglia di trattare. Non mi tira certo su. Sì, due chiacchiere si possono fare. Ciao Stefano, buonasera. Ecco, volevo un'informazione. Cosa devo mettere? 165 o IS0 nel nominativo? No, 165 devi mettere. Quello che c'hai di cosa, di... Vabbè, già capito. È 165, ok. Volevo quella informazione per essere sicuro, no? Qualcosa hai sentito? No, devo farmi i cavetti, devo farmi ancora, no? Non ho avuto modo di poter uscire, capito? Ho capito. Va bene, Marco Conno, cosa sei, depresso? È abbastanza, c'è un po' carenza di vitamina F, quindi poi me ne è sceso pure il dente, un incisivo frontale, quindi c'è un incisivo, quindi figurati, guarda, c'ho ridere, si vede il nero, mamma mia, 165 cos'è, la regione Sardegna, no? Per chiamate The Dix. No, devi metterti un pezzo di cingomma lì a posto del dente. Rosa magari, tipo Big Bubble. E vabbè, stiamo aspettando tempi migliori per metterlo a posto. Tempi migliori. Un po' di soppa, no? Allora, per forza, ti devi mettere un... come si chiama? Un pezzo di cartone. Che c'è un pezzo di cartone? Poi... mi faccio col DAS, esiste sempre il DAS bianco, sì, mi faccio il lente posticcio. Sì, Natalì, sì, Marco, è entrato, sì, il DAS lo metti bene, lo fai asciugare bene al forno, diventa duro come la pietra, capito? Però fai come piace a te. Lui te li fai un bel colore, capito? Vabbè, adesso noi stiamo scherzando, però è davvero, io non ci uscirei più di casa se avessi una cosa tipo te, davvero. Mi Elio Pium è entrato mi, sotto. È un po' di scoppa difficile, ma buonasera. Ehi, ciao Elio. Ehi, no, adesso vabbè. Questo mese siamo andati un po' male, eh? Mese prossimo spero di metterlo a posto. Sì, perché vabbè io esco, cerco di sorridere solo a denti chi, a bocca chiusa sorrido, capito? Mamma mia, proprio l'incisivo, vabbè i molari non si vede, non si vede. L'incisivo è un casino. Vabbè prima o poi dovrà succedere. Caro Natalino, cosa mi racconti, novità degli ultimi giorni? Niente? Che mi è avanzata la dentiera il mio suocero, se ti serve, te la do io. Tu sì che sei un amico. E anche le scarpe mi sono avanzate, se le vuoi te le do, la dentiera più le scarpe. Io trovami qualcuno che si copri quel cacchio di Jesu 2009, Claudio. No, non lo so, buonasera a tutti comunque. Non so chi troppo comprare con la radio, te l'ho detto io, non ce l'avevo, no, niente, io solo basse. Vabbè, sto ascoltando Gianfranco in sé, come hai chiamato stamattina se, per il di Amerbe, ha detto che era pronto, così iniziamo a fare qualche provocazione di Amerbe. Ciao Elio, ciao Natalino. Natalino, ieri ti ho chiamato. Sei parito. È venuta gente all'improvviso e già lo sai. Lì è un casino. Bisogna punire a campana, che non c'è come te da caricare. Allora avvisi. Sembrava che ti era mancata la luce e che c'erano stati problemi. Va bene. Allora riprendi e rispondi a Marco. Marco, se hai capito, non c'è problema. Ti va anche un giubbotto, sempre tutta roba antifortunistica però, perché lui andava in campagna, quindi. Però la dentiera è nuova, bella, custodita, capito? E io ho quelle scarpe antifortunistiche, se le vuole Marco. Una c'ha un difetto però, quando cammini fa clac clac. Oh pezzo di ridagli, così bocarebbe di vola. Io ho la moletta, un pezzettino ne spussiamo. Allora la tagliamo e gliela diamo a Marco. Perché c'ha quel difetto lì, fa clac clac, si era rotto il ferro di dentro. Anche il ferro è rotto, di giù. Figurati se ti puoi fidare di quelle calzature. Certo che sono calzature proprio meguiuri. Se no mentre fai l'aereo le scarpe fortunistiche, che lui le c'ha quelle senza lacci, larghe. Le miago, che cosa sono? Pantofole? Prendo qualche tronchetto, te lo scavo, faccio questi abbatti neri. I legni di olivola. Mastro Geppetto. Delle volte Elio, Marco, mi sai, quattro voci più IVA. Mastro Geppetto. Quelli giocoli tipo pescatore caprese, quelli di Fantucci che ha fatto il capitombolo. Yeah. E invece mi è arrivato un messaggio, c'è un contest oggi 70 cm 4,32 dalle 7 alle 23. Guarda che più coraggioso. Vabbè, nome attivo c'è. F, con la F inizia. Deve essere quello di tiri. Ma dove? 70 cm dopo. Ah. Vabbè, non so. Già è lui. C'è lui, CQDX, Francia, Whisky, Yankee. Che è, con l'amico tuo dite, vieni. Dammi la frazione. Manco io, conoscenti sempre, no amici? Amici ne sono rimasti pochi. E adesso è quell'amico di Antonio. Capito, questo dovrebbe preso la patente assieme a te. Dimmi la frequenza, subito, immediatamente. No, non è preso proprio. Non ce n'è frequenza, 4,32 MHz, 70 cm. Come non c'è frequenza? No, perché c'è la frequenza. Spaziatura. 32 poi. C'è solo l'inizio, 432. Ah, tutti. 432, tutti cosa? Tutti cosa? 432 megahertz, cosa vuol dire? Io ho capito. Tutti i 432. Con la spaziatura apposita. Sì, questo tutti 432 cosa vuol dire? Vuol dire 432. È appena in culo. Può essere 432-200, può essere 432-500, 432-300, ma 432 in poi. Ma io non ci parlo più, cazzo, sono un po' quello di piedi. E dalle. Non ci parlare, Natalia, però quando ci vuole, ci vuole. Dico Marco, è depresso che ne caggiù duro 20, ho detto che le davo la ventiera del mio socio. Poi è andato al bar e si è fatto il tè, lì si è stretta anche la canna, adesso non capisce Marco quello che sto dicendo, a tre abili in culi. Beviti un succo di frutta, vai, bevi, bevi. Eia. Eia. No, il tè era buono al bar, era un tè, che marca è? Quella che usa il bar. Oh, Wellington, una marca del genere. Vengo solo un minuto. Tra un minuto ritorno. Ehi, abbiamo capito. Le scarpe, ricordi? Via, via. Salva la patria, per carità. Ciao Valerio, buonasera. Fai entrare break un attimino di quel X per me che è arrivata gente. Non fuggire, Claudio. No, carradito. Scesa lontani, ciao Capri, mi fai un intratto, non so che ci sia rimasto, se non t'ha dato Stefano, Claudio, non so, l'hanno chiamato, c'è Natalino Alfa 1, forse Rio Piuma anche. Sì, sono qua, forse una cosa prima, ciao Gianni Capri 2, saluto anche l'altro amico del Capri, e pare che ci sia stato qualcun altro che ha fatto un bel coso. Riprendi Marco, senti Marco. Marco. Riprendi Gianni Capri 2. Grande con orecchie. Mio Twitter è mezzo rotto questo. Io non ho la visione. Lui da radi. No, dipende da come fa. Neanch'io non ne ho radi buoni. La radio è ultima, sì. E capo a capo, si trova la parola fisarmonica. E c'è anche... Spariscono tutti, ciao Capri 2. Caricatevelo. No, negativo, ho finito, dai, no, non le voglio più sapere di più. Va bene. Metto il microfono adesso, magari questo è un pochino meglio. Oh, Marco Conno, sei rientrato. Ehi, come ha detto la frequenza, quello là, subito se ne sono andati a vedere, a sentire cosa succede. Io non sento nessuno con la frequenza. Avanti, c'è posto? Avanti. C'è Capri 2, io ti chiedo di scoprire. Ho messo questo l'MC85, come va secondo te? L'MC85, è quello grigio? È quello grigio, perché altri colori esistono? Vabbè, no, sì, è quello grigio. È tipo quello che c'ho io. Non lo so, quello è l'MC60, questo è l'85. Che ha, come si dice, compressore incorporato nel microfono. Non lo so, sono sotto basso di radio, vero Capri 2 di prima. Aspetta. Sì, no, già, guarda, radio ce n'è quanta ne vuoi, non è che sia quello il problema. Radio ce n'è quanta ne vuoi, adesso è aumentato. Sempre uguale. Come sempre uguale. È possibile che non ha aumentato niente? Vediamo un po'. Con questo ha aumentato. Adesso sì, ma sta fischiando. Lo so, ma adesso così va meglio forse, dai. Certo che sì. Oh, yeah. Domani, siamo andato al meteo, non l'hai visto? No, domani, mercoledì, giovedì notte. Giovedì notte, boh, non lo so, aspetta, che so. Ho levato tutto adesso. No, ritorno a 1060 perché mi sto ascoltando, la modulazione è migliore. 85 è molto, sta innescando di più, innesca di più. No, se hai visto il meteo che ti ho mandato, dici di domani, temporale e neve. Sì, quello l'ho visto, che neve. Però di giovedì notte, domani mercoledì, fare giovedì notte, e dopo l'una alle due c'è una temperatura fino alle 7:08 del mattino, poi sale piano piano un grado, 2 gradi. Sì, per oggi cos'è? Martedì. Oggi è martedì, i primi Gianni. Gianni, sì, ti credo, perché così anche qua abbiamo avuto freddo stanotte. Infatti adesso mio, cioè, appena il riscaldamento centralizzato l'ho appena acceso, mio padre aveva freddo e anch'io la verità, quindi l'abbiamo acceso. No, di notte, sai, quando la temperatura scende è così, se non sei riscaldato bene, anche nel letto, io ho la termocoperta, per cui stanotte ce l'ho accesa a una temperatura minima, quindi no, non lo sento questa grande differenza. Ho collegato l'India stasera e Guantanamo. Ho collegato l'India e Guantanamo. No, io stamattina ho fatto un corso con Coppenza, Mario, Sicilia, questi erano qua. Tra di loro non si sentivano, io li sentivo tutti, loro sentivano tutti a me, però tra di loro non si sentivano. Non lo sai che è così. È così, aspetta, mi metto un pochino meglio perché il microfono, ecco, direziona, altrimenti devo parlare col... Beh, sì, sono in cuffia per cui un pochino mi fischia, anche se ho il monitor a 2, ma mi fischia lo stesso. Riprendi Gianni, Arras, Nakim. Ehi già, è così, non c'era... sta venendo un pezzo lì a Vidolina. Sì, c'era la sfilata di Tempio, stava nevicando, più non posso, poi adesso è terminata e hanno fatto la premiazione, cioè l'ho vista così perché ero in cucina, mio padre stava guardando la sfilata, ho visto che c'era la neve, ah, io ho le gomme termiche per cui la neve non mi fa niente, capito, c'ho quelle 4 stagioni e quindi non ho problemi a viaggiare sulla neve. E infatti, ma erano altri tempi quelli. Ho già, se ne vedete una macchina che camminava da sola, scivolava da sola, camminava da 3 panni. Quindi anche noi abbiamo fatto una bella scivolata con uno squalo, ma anche parlava lo squalo. Ho già, avevo il Citroen DS Pallas, hai capito? No, non il GS, non il DS, quello lungo. No, ma è così. No, mi sta facendo più solo in qualche modo, con amici, con coppia, ma no. Buonasera Gianfra. Siccome c'ho il coso, capito? Capri 2, se mi stai ascoltando, avevo in quei tempi il Citroen DS Delta Sierra Pallas, non so se te lo ricordi. Adesso che sto uscendo male, io già, non so, no, di ragazza tua. No, vediamo, ci sono io lo sento a Gianni Capredue, lo sento perfettamente. Vabbè, dai, prego Gianfranco, la buonasera, va. Sì, buonasera a tutti, va ascoltati. Io sento bene a cazzi, adesso ho aumentato un po' troppo, però lo sento. Volevo chiedere una cortesia a te, e poi passare un attimino sulla frequenza di chiamata, l'assoluta in UHF, che devo provare un apparecchietto. Capito. Sono uscito? Sì. Io sì, sono uscito. Stefano Cucu? Scusa Gianfranco, cosa mi hai detto? Ho detto se potevi passare un attimino sulla Simplex UHF perché devo fare una prova, devo testare un apparecchio che ho programmato. Normale? Sì, da 4.50. Ah, ok, va bene. Riprendi Elio. Elio, siete? Sembra che siamo spariti. Sì, fortunatamente Gianfranco, ho trovato un code plug in un sito olandese, quindi me l'ho scaricato. Sì, basta andare su quel sito che è formidabile, non mi chiama il nome, Amma Radio, cioè, insomma quel forum, poi ci sono tutti anche i code plug anche della Germania e dei paesi circostanti. Oltre che c'è anche gli aggiornamenti ovviamente, sono ancora più interessanti. Io li faccio tutti da lì, dal sito proprio olandese, sono formidabili. Sì, confermo, sì, hai ragione. Ci sono anche gli aggiornamenti, ma io la mia radiolina è già aggiornata, all'ultimo firmware addirittura, quindi no, è inutile aggiornarla, che è già tutte le cose a posto per quanto gli riguarda. No, è stata una bella cosa perché gli ho buttato dentro quel file, mi ha dato un sacco di frequenze, anche dei treni, ma roba da matti. Sì, perché, ma guarda, anche qua comunque stiamo passando a DMR, sono anche gli apparati, il Romulus, quelli rossi, dovrebbero essere in chiaro anche. Non lo so, cioè, ho detto, prima ti dicevo chi, quegli altri, sì, quelli rossi, infatti, dovevano essere così, cioè, ce ne sono diversi, qui non lo so, perché non ho fatto nessuna ricerca, eccetera, eccetera, perché sai, magari sono altri posti, altri canali. Varia da paese a paese, questo. Comunque, non c'è due sistemi, ovviamente usiamo anche noi per questione di velocità, anche, perché quando premi di lì è istantaneo, mentre l'altro, quello che ci hanno scelto gli altri per questione di sicurezza, quelli lì sono un po' lentini, mi hanno detto, quindi premi è una cosa un po' così. Sì, ho capito, vabbè, fa niente. Sto fischiando, perché? Adesso, aspetta, ora forse va meglio, sì. Ecco, così va anche meglio. No, devo mettere la massa a questo microfono, perché se non ci metti la massa ho notato che fischia. Avrà un po' più di rientro, probabilmente. Ok, va bene, io devo fare ancora due cosette, sono qua in ascolto. Ne approfitto per sistemare queste cose qua, se no me le ritrovo sempre mezzo a piedi. Sì, tranquillo, perché io rimango un attimino qua e la settimana in quarta poi mi sposto un po' in cucina, devo fare delle cose, quindi poi non sarò più in radio. A più tardi, Gianfran, dai, buona serata. Ok, stai anche a te, buona serata.